do la linea subito a Lorenzo Valera che ci chiama con urgenza. Pronto? Siamo sul lungomare, a metà praticamente del lungomare, tra nel percorso che passa tutto lungomare, quindi siamo ancora abbastanza lontani da Piazza Kennedy, questo spezzone del corteo. Qui sta succedendo una cosa assurda e pericolosissima. Da un terrazzo, che saranno una trentina di metri sopra il lungomare, la polizia ha sparato dei fumogeni sulla manifestazione. Dal corteo non si vede la polizia. Qua c'è la strada piena di gente, cioè le persone non hanno grandi possibilità di spostarsi dalla zona del fumo, e dall'altra parte, ovviamente, essendo il lungomare, c'è il mare. E quindi le persone qui stanno lacrimando, stanno soffocando per i fumogeni, senza alcuna via d'uscita, perché sono tutte schiacciate da una parte della via per il fumo di questi fumogeni. Evidentemente è una situazione pericolosissima, in una situazione di questo tipo. E vi racconto anche un'altra cosa, successa pochissimo fa. Io stavo andando a vedere una ragazza che era appena stata colpita da un razzo sparato dal corteo. Qui è molto largo il corteo, in questa parte qui. Qualcuno dall'altra parte, cioè dalla parte verso il mare, ha sparato un razzetto, non so se per sbaglio, se è partito, non credo proprio, un razzetto che, girando vorticosamente su se stesso, ha oltrepassato la strada ed è scoppiato in mezzo ai manifestanti dall'altra parte. Una ragazza è ferita alla gamba in maniera non mi sembra molto grave, una piccola ustione sul polpaccio, certo, qualcuno veniva colpito in faccia, sarebbe stata una cosa ben più grave. E subito dopo questo fatto sono partiti... qualche minuto dopo sono partiti i lacrimogeni sparati senza nessun motivo apparente dalla polizia, che adesso si vede dietro delle piante, dietro dei reticolati in cima. Tutto sembra voler veramente dire che si sta cercando di alzare la tensione, che è già alta di per sé, perché in questa parte del corteo tutti hanno gli occhi aperti, tutti sono attenti a qualunque cosa possa capitare all'interno del corteo. Quando succede che si vede qualcuno che con un bastone comincia a rompere qualcosa, dall'intero corteo si solleva un grande grido e moltissime persone si precipitano a fermarli, e a volte chiaramente si beccano anche qualche bastonata. Adesso c'è un grande silenzio, sembra quasi che la gente non sappia più dove guardare, perché da una parte c'è il mare e dalla parte del mare è arrivato un razzetto sui manifestanti, dall'altra parte in alto ci sono i poliziotti, in questo momento non si vedono neanche più, ma si sa che da lassù potrebbe cascare qualunque cosa, in un corteo come questo potrebbe innescare qualunque cosa. Prossima stazione. La zona degli scontri, diciamo, fra polizie e manifestanti. Piero Bosio, vediamo se sei in linea. Pronto? Sei in linea, Piero? Si sta mettendo malissimo, la polizia sta attaccando in fronte anche al resto del corteo, la gente sta scappando, si sta imbottigliando nella coda, poliziotti stanno attaccando tutti, stanno attaccando indiscriminatamente tutti? Non parlare, stanno attaccando tutti. Ci hanno prima caricato con i lacrimogeni e quindi ci passavano in testa, abbiamo cercato, guardavamo il cielo praticamente per schivarli, erano tanti, e poi a un certo punto all'improvviso ci hanno caricato, però non c'era spazio, quindi siamo finiti molti per terra calpestati, e poi alla fine è arrivata la polizia e a me personalmente mi hanno manganellato 3 volte, punti in testa, lussazione del braccio e sulla spalla. Molto facile da parte loro, con i manganelli. Noi non avevamo niente, eravamo rannicchiati per terra e loro ci picchiavano. Siamo finiti per terra calpestati e poi dalla gente del corteo, e poi alla fine sono arrivati loro e ci hanno manganellato. A fianco a me c'era una persona di 60 anni che è stata manganellata. Parlare con Piero Bosio ovviamente in questo momento è particolarmente difficile. Adesso noi cerchiamo di collegarci con altri nostri inviati, soprattutto nella parte seconda del corteo, perché il corteo viene in questo momento attaccato in maniera indiscriminata, almeno a quanto ci raccontava Piero Bosio. Stiamo cercando di collegarci anche con altri inviati della seconda parte del corteo, che adesso viene caricata da dietro da polizia e carabinieri con un fittissimo lancio di lacrimogeni. Buon pomeriggio, io mi trovo in questo momento in una traversa di Corso Italia, si tratta di Via Piave. Da Via Piave sono arrivati una mezz'oretta fa circa 400-500 agenti di polizia. Da pochissimi minuti hanno iniziato a caricare la parte finale del corteo, dove si trovavano alcuni militanti di Rifondazione Comunista più alcuni gruppi di autonomi. Ignoto comunque il motivo per cui la polizia è scesa da Via Piave ed è arrivata in Corso Italia. Siamo passati adesso di fronte a una traversa abbastanza grossa, da cui, come per magia, come se ci fosse quasi un appuntamento, sono arrivate centinaia di poliziotti in assetto antisommossa, come per voler caricare. Anche ovviamente il corteo ha subito un arresto, è cominciato subito un lancio di oggetti verso la polizia, ma immediatamente, come dicevo prima, le persone che stanno cercando di fare un servizio d'ordine qui si sono messi in mezzo, hanno cercato di impedire che i sassi venissero lanciati, e sono riusciti, per puro miracolo secondo me, a fare in modo che il corteo avanzasse quel tanto perché la strada davanti alla traversa si liberasse. Alcune persone si sono sedute in mezzo alla strada in modo da far vedere che i sassi avrebbero colpito anche loro. Le trattative con la polizia per fare in modo che si fermi qui e che quindi non si inculei comunque nel corteo sono in corso. Ci sono un gruppo di persone che fanno appunto il servizio d'ordine che sono venuti qua a cercare di parlare con la polizia. Sembra una cosa molto difficile perché i funzionari di polizia hanno le bocche chiuse, sguardi assolutamente gelidi e sembrano non avere assolutamente alcuna intenzione di contrattare. Sembra che gli sia andato male qualcosa. Adesso in realtà sono riusciti a farli indietreggiare, la polizia con gli studi indietreggia, quindi evidentemente una carica qui avrebbe provocato sicuramente qualche ferito, se non qualcosa di peggio. Tutto è stato evitato soltanto, esclusivamente, lo ripeto, grazie all'intervento delle persone del cordone di sicurezza del network dei diritti globali, che hanno rischiato proprio in prima persona sia di prenderle dalla polizia sia di prenderle dal blocco nero che qua ormai si è comunque confuso nel corteo. Gente vestita di nero, gente che nessuno conosce, gente che nessuno controlla. Con la carrettera buscando l'idea. Siamo scappati tutti, siamo sulla scalinata Filippo Guerrieri. È tutta una cosa molto grave, poteva essere veramente pericolosa, perché la polizia ha fatto una manovra tenaglia, sono arrivati di corsa con i blindati dalla parte est del lungomare e hanno fatto avanzare tutti i poliziotti che erano vicino a Chiera di Levante. Una manovra tenaglia, a questo punto avanzavano e sparavano lacrimogeni. Adesso, per l'ennesima volta, sono stato testimone di un lancio di un carabiniere ad altezza d'uomo su 300 persone che scappavano e che sono qui sulla scalinata di Filippo Guerrieri. Hanno fatto questo avanzamento costringendo la gente a scappare a tutte le parti, spingendosi, calpestandosi, perché non c'era una via di fuga, non si capiva dove scappare perché la manovra era a tenaglia. Per cui in un primo tempo la gente ha tentato di fuggire verso il mare, ma è stata accerchiata dai poliziotti che arrivavano. Ha tentato di scappare verso la zona nord, verso il centro, e arrivavano i blindati dei carabinieri terrestri a tutta velocità lungo la strada. Ho visto una persona a terra, un anziano di 60 anni, era lucido, però aveva un dolore alla testa, abbiamo chiamato subito un'ambulanza. È stata una cosa veramente non solo vergognosa ma pericolosa, perché se qualcuno cadeva, eravamo circa 3-4 mila, quindi la polizia ha attaccato quello spezzone del corteo che nemmeno assisteva, ma quello che continuava a passare lì in zona e si fermava a guardare, costringendoli a scappare in tutte le direzioni. Ci siamo rifugiati in una piccola dirupo alberato proprio per non prendere i lacrimogeni in testa. Finito tutto, la polizia ha riorganizzato i suoi mezzi e in quel momento siamo usciti e pian piano cercavamo di defilarci e raggiungere il corteo che era quel pezzo di corteo che era Piazza Ferrari. In quel preciso momento sono arrivati due o tre poliziotti, uno senza casco, due con i caschi, in maniera molto rude hanno detto andatevene via di qua, e io gli ho risposto semplicemente ce ne stiamo andando. Da quel momento in poi non ricordo nulla, le mie braccia sono assolutamente prive di nudi, che significa che a freddo questo mi ha colpito con almeno due manganellate, una appunto in faccia, in piena faccia, e l'altra sulle costole che mi dolgono parecchio. Setto nasale rotto, un punto di sutura in fronte, labbra spaccate sopra e sotto, io non ho più ricordi, però ho una gran ferita sul volto.